Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Bravo. A posto allora, amo risorto. Oh, sei bravo, eh. Allora stiamo a posto, insomma, ti offrirei un caffè, però c'è sta mia madre, pare brutto. Non c'è problema, anzi, ho un lavoro qui vicino, sono di fretta. Meglio. Però per questo lavoro sarebbero... Sarebbero che? A coso? Se siamo capiti male. Senti, te lo dico onestamente, per questo progetto non c'è budget. Che te credevi, eh? Insomma, alla fine sei venuto qua e non hai fatto niente. Cioè, quello che hai fatto tu lo facevo pure io, o no? Eh? Sei giovane, ha fatto un'esperienza. Te fa curriculum. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi un po' di sana e amara ironia per cominciare. Avete appena ascoltato un passaggio da uno dei video dell'irriverente campagna virale Coglione No, che denuncia la vergognosa pratica molto italiana del lavoro creativo non pagato. I protagonisti del video sono un giardiniere, un antennista e un idraulico costretti a subire la stessa sorte di un giovane creativo. Tanto lavoro, nessun guadagno e vane promesse di visibilità. Si chiamano Zero perché dicono il mondo è finito e non ce ne siamo accorti, e soprattutto perché i soldi sono finiti da un pezzo e noi di soldi nostri non abbiamo mai avuti. La frase della settimana è copyright del segretario CGIL Susanna Camusso. Siamo un paese che sta nell'Unione Europea, abbiamo in tutti questi anni parlato di globalizzazione perché i giovani si sentano cittadini del mondo e considerino la possibilità di andare altrove. Credo sia giusto e positivo. Quello che non è giusto e positivo è che tanti giovani italiani lo pensino perché qui non hanno possibilità. Questa non è volontà di andare per il mondo, ma un obbligo ad andarci per un'assenza di prospettiva, ha concluso la Camusso. E il problema è lavoro, lavoro, lavoro, riassume il segretario generale dell'Ocse Angel Gurria. La disoccupazione giovanile è una questione esplosiva per l'Europa, precisa. Un avvertimento valido più che mai per l'Italia, dove, segnala il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, il forte e protratto calo dell'attività economica ha pesato in misura maggiore sui giovani, con un tasso di occupazione crollato al 43%. Per la BCE l'Italia, con Grecia e Spagna, è in cima alla classifica della disoccupazione giovanile fra i 18 paesi dell'Eurozona. Siamo primi in assoluto per la presenza di giovani netti. E per il Ministero del Lavoro tra dicembre 2006 e dicembre 2013 il tasso di disoccupazione giovanile è raddoppiato. E noi vogliamo così dalla vecchia Europa con tutti i suoi problemi a un estremo Oriente che rimane terra di frontiera per i nostri giovani più intraprendenti. Chi coglie il cambiamento guadagna e diventa ricco, a tutti i livelli. Il valore della parola è come il semaforo alla Formula 1. Quando dici una cosa, immediatamente dopo si inizia a farla. Da noi si parla, si fa teorie e poi quando è ora di farla ti dicono «Oh, beh, aspetta, abbiamo appena deciso, vedremo». Michelangelo Guglielmetti, 39 anni, un imprenditore nel settore fotovoltaico, di stanza a Hong Kong, della sua storia. Parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. In apertura citazione per il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, che in un profilo sull'Italia pubblicato lunedì ha raccontato l'esodo dei nostri giovani dalla penisola, menzionando ben due storie raccontate a Giovani Talenti, quelle di Marco Vismare, immigrato a Berlino, e Luana Ricca, espatriata a Parigi. Ed è un notiziario monotematico quello di oggi sul flusso di italiani che espatriano oltre Manica, un flusso in continua esponenziale crescita. Lo dimostra l'iniziativa Primo Approdo, di cui abbiamo già parlato, iniziativa lanciata dal Consolato Generale a Londra per aiutare i giovani a orientarsi in Inghilterra. A parlarcene è il Console Generale Massimiliano Mazzanti, che a Giovani Talenti fornisce due notizie in anteprima. La prima, Primo Approdo proseguirà ad libitum. La seconda, è ragionevole pensare che gli italiani in Inghilterra e Galles superino abbondantemente il 500.000, più del doppio di quelli ufficialmente registrati. Sentiamo il console Mazzanti. L'idea, devo dire, è nata da una discussione che abbiamo avuto con l'ambasciatore Terracciano. L'analisi dei dati delle registrazioni italiane a Londra e l'arrivo quindi di un consistente flusso migratorio dall'Italia ci ha fatto riflettere su quali fossero sostanzialmente i dati principali di riferimento dal punto di vista dell'età, dell'estrazione e della provenienza geografica. Il campione che abbiamo analizzato, il 60% è risultato essere di ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Il 57% di questi in possesso almeno della laurea, quindi un fenomeno immigratorio che si sovrappone in qualche modo anche al brain drain, alla fuga di cervelli classica che ha caratterizzato anche gli anni precedenti a questo nuovo flusso migratorio. Pertanto l'ambasciatore, su sua ispirazione, abbiamo dato vita al progetto Primo Approdo, che abbiamo poi realizzato in una serie di seminari a cadenza mensile, sostanzialmente due al mese, sui temi principali che sono più cari ai giovani che ovviamente approdano letteralmente in Inghilterra, a Londra in particolare, e cioè il lavoro, la casa, la sanità e il mondo accademico britannico. Qual è stato il feedback da parte di questi giovani? Avete ricevuto una buona risposta? Una risposta eccezionale, decisamente al di sopra delle aspettative, ma soprattutto ingente dal punto di vista numerico. Il problema è che possiamo ospitare per ognuno dei seminari una sessantina di ragazzi alla volta e le richieste vanno ben oltre, più del doppio di solito. Quindi abbiamo intenzione, da un lato, di continuare ad libitum, quindi indefinitivamente questo progetto, il che significa che i seminari continueranno nella stessa cadenza, due al mese, per tutti i prossimi mesi, probabilmente anche i prossimi anni, fino a che ovviamente non vedremo una diminuzione di questo flusso migratorio, o quantomeno segnali di maggiore stabilizzazione. L'idea sostanzialmente sarebbe quella di non solo continuarli, ma dare una formazione professionale iniziale ai ragazzi, evitando intanto di credere che Londra e l'Inghilterra siano in qualche modo un paradiso, e viceversa mettendoli al corrente di tutta una serie di misure, di differenze dal punto di vista sociale, culturale, del mondo lavorativo, legale, sanitario che ci sono con l'Italia. Il vostro è un osservatorio importante, anche perché avete i dati AIRE sotto mano, dati purtroppo spesso incompleti, lo si sa, si tende a dire che almeno dovrebbero essere raddoppiati per avere una cifra più o meno esatta. Però, in base ai vostri ultimi dati aggiornati, quanto sta incrementando il flusso di italiani e giovani italiani verso Londra e la Gran Bretagna? Guardi, ti voglio fare un esempio. Sono arrivato come console generale, ho assunto come console generale in agosto. Ho fatto fare la verifica allora e ovviamente l'aggiornamento adesso, a gennaio 2014. I connazionali erano 212.000 nell'agosto 2013. Sono quasi 222.000 nel gennaio 2014. Nel lasso temporale di 5 mesi sono aumentati di 10.000 gli iscritti e di questi 6.000, quindi il 60%, sono tra i 18 e i 35 anni. Questo è testimone ovviamente di un afflusso come ha detto lei anche giustamente, non solo in aumento, ma che non è una fotografia reale della realtà, perché la registrazione AIRE è probabilmente solamente la punta dell'iceberg, un iceberg che potrebbe celare sotto il livello delle acque più di 500.000 di connazionali in Inghilterra e nel Galles, per essere quantomeno approssimativi. Riteniamo che siano ben oltre il 500.000. Tutte le info su primoapprodo a www.conslondra.esteri.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino a Hong Kong, antica colonia inglese in Estremo Oriente, da anni tornata alla Cina, ma resta un formidabile trampolino di lancio per giovani italiani intraprendenti con un'attitudine business oriented, come ci dimostra la storia che vi raccontiamo oggi. Nome: Michelangelo. Cognome: Guglielmetti. Età: 39 appena compiuti. Città di origine: Legnano. Studi: economia a Milano. Anno in cui ha lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Corea. Perché? Dovevo ispezionare il primo ordine. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditore in Asia. Dove? Ad Hong Kong, Cina, Corea e Giappone. Devo accettare una volta per tutte che gli italiani non sapranno mai fare imprese e sistema in senso moderno e internazionale? Persino i cinesi, e non solo loro, iniziano a vederci come farfalloni. Altro che crisi, siamo noi tutti, pigri e piatti, operai o imprenditori, l'unica vera cagione dei nostri mali. Michelangelo, era il 2 gennaio di quest'anno quando la tua seconda email mi ha convinto che non potevamo aspettare oltre a invitarti in onda. Allora sarò ancora più duro. È finito per sempre un modello di sviluppo? Cambiare radicalmente o morire svendendo l'argenteria di famiglia? E ciao ciao Italia? Parliamo per estremi, le eccezioni anche in Italia ci sono, ma purtroppo sono poche e non si può andare avanti così. Beh, io penso che di una prospettiva di futuro, di economia, di concetti di questo genere non c'è mai stato un gran pensare da subito dopo la guerra, forse tolti i primi 20 anni, poi ci si è tutti seduti e ci si è limitati ad andare in ufficio, tornare a casa, ufficio, casa, fabbrica. Basta eccetera. Progettualità, basta dinamismo e questo è il risultato. La tua storia, Michelangelo, davvero straordinaria anche per il coraggio che hai avuto. Classe 75, tutto fila liscio fino all'università, circondato da un'Italia che sorseggia gli ultimi strascichi del miracolo economico. In Ateneo scegli economia perché? Pensavo fosse la cosa più giusta, visto appunto la famiglia di imprenditori, e ho detto vabbè, magari rendiamo una cosa un pochino più ortodossa a quello che si è sempre fatto fino adesso, però a ripensarci magari era meglio scegliere, sarebbe stato meglio scegliere architettura, che è una mia passione, e poi imparare a fare impresa da qualche altra parte. Ma a posteriori sarebbe stato meglio partire direttamente per studiare all'estero? Beh, ai tempi, vista la mia background della mia famiglia, un pochino conservatore, magari non sarebbe stato così facile, però insomma internet e l'inglese mi hanno aiutato. Internet, proprio internet, insieme allo studio dell'inglese, rappresentano per te le chiavi d'accesso a un mondo che si sta globalizzando. Perché a 25 anni esatti decidi di aprire un'azienda e in quale settore? Ho deciso di aprire una ditta individuale, pensavo di essere pronto anche se effettivamente non lo ero, e facevo trading, compravo prodotti, pensavo, e poi l'ho fatto, ho iniziato a contattare aziende cinesi, c'era un portale online appena aperto che sponsorizzava aziende cinesi, e contattare aziende italiane per provare a venderli. Cronache dall'Italia della burocrazia. Un anno dopo ero sfinito, avevo fatto solo carte, la banca mi chiamava tutti i giorni per 238.000 lire di scoperto sul conto. Allora, Michelangelo, ha senso in tutta onestà per un giovane rischiare in proprio per un progetto imprenditoriale in questo paese? Beh, io penso che in questo paese si debba iniziare veramente a rischiare in proprio per un progetto di vita. Che poi fare l'imprenditore non sia una cosa alla portata di tutti, è vero, perché è un lavoro bellissimo ma durissimo, ci vuole sacrificio, dedizione, tutto quello che potete immaginare, moltiplicatelo per 100. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Aprile 2001, parti per Seul, Hong Kong, Shenzhen, Canton. Partito e mai più tornato, ricordi con un certo sollievo. Cosa accadde in quelle settimane in Estremo Oriente? Cosa ti convinse al grande salto, alla fuga dall'Italia? Ho trovato un posto dove la gente mi ascoltava per quello che dicevo, non per chi ero, chi fosse la mia famiglia, qualche età avessi, eccetera. Nelle banche, gli imprenditori, la gente, gli avvocati, i consulenti, chiunque. Valeva la un pena. Un sogno. Sì, possiamo sì. dire, finalmente qualcuno che ti considera. C'era quello che serviva. Per quello per che me. Sai fare e non da dove provieni. Nel concreto, quale attività hai aperto a Hong Kong? Prime tre aziende che lavoravano nell'impiantistica industriale, producevamo pezzi per gli impianti tubi flange raccordi in Cina, e poi è venuta la società delle rinnovabili, adesso collaboro con una società di consulenza manageriale e un sito online per commercio di cibo italiano organico. Ci arriviamo, il meglio deve ancora venire. Da quel momento è stato un susseguirsi di alti e bassi che mi hanno fatto diventare quello che sono, tutto il basso purtroppo in Italia. Perché? Sì, beh, la prima cosa orrenda, purtroppo devo dirlo, banche e bancari. Seguo il sistema fiscale, le verifiche, come le fanno, e poi anche un pochino la gente, cioè vedevo che se non stavi nel giro, non stavi alle regole, non c'era possibilità, e per cui io mi mancava respiro, francamente, per cui tornavo, stavo qui un po', vacanze, mamma, papà in company, senso di via. Soffocamento in Asia intanto, però racconti, si lavorava sprombattuto, il mondo capovolto, insomma. Ci dai una misura di questa dinamicità del mondo orientale, di questa velocità di crescita? Beh, facile. 12 novembre compro una sciarpa firmata a Milano in un outlet, la vedo un mio amico online e mi dice: bella, me ne compri 4 per i miei amici. Alla fine, 12 di dicembre, siamo arrivati con tante sciarpe spedite, però dal Giappone, proprio esattamente le stesse. Non avevamo le problematiche di consegne, di ritirare, di parlare con le persone, di trattare per un 5% 6 giorni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Michelangelo Guglielmetti, 39enne imprenditore di stanza a Hong Kong, specializzatosi nel settore delle energie rinnovabili. Michelangelo è letteralmente disgustato dalla chiusura del sistema Italia alle idee e ai capitali che arrivano dall'estero, un vero e proprio microcosmo stagnante, terreno di coltura dei soliti noti. Ma i soldi nuovi girano solo soldi vecchi e ne girano sempre meno. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. In Asia le opportunità non finivano e non finiscono mai, si deve solo essere pronti a fare sul serio, dici. Intanto il sistema Italia, che tutti ritenevano una perfetta macchina da guerra dal radioso avvenire, alla prima crisi seria mostra tutti i suoi limiti e va in pezzi, mostrando la totale inadeguatezza della classe dirigente. È il 2008 e tu lo capisci dalla Cina, come? Sì, niente, succede il crack negli Stati Uniti, immediatamente sento i miei clienti che comprano sempre meno, i loro clienti comprano sempre meno, io dico agli imprenditori sedere di piombo, diciamo così, in ufficio, quando parliamo degli italiani. Nel 2009 il tuo ingresso nel settore delle rinnovabili, paradossalmente è un ordine dall'Italia a spalancarti le porte di questa nuova avventura. Erano gli anni del fotovoltaico, in quella moda c'era tutta l'Italia di oggi. Tu la chiami l'Italia del fuoco amico, che protegge i vecchi players e ammazza i nuovi, quelli più giovani e innovativi, non appena crescono troppo. Come funziona questa Italia del fuoco amico? Se sei nuovo e fai le cose diverse non sei controllabile, per cui devi andare giù, perché non solo non ti permettono di guadagnare, se ti permettono di guadagnare ti permettono di guadagnare, cioè non puoi guadagnare tu di tuo, devono farti i conti in tasca, quindi ti promettono grandi cose, vogliono solo le loro robe, ti lasciano la briciolina e così puoi crescere, poi quando sarai grande farai lo stesso, è come al militare. Alla fine è solo una questione di resistenza al cambiamento, di conservazione dello status quo, abitudini che se portate all'estremo rischiano di far sprofondare il paese. Allora, due paradigmi per tagliare la testa al toro, così capiamo. Ci spieghi cosa succede in Cina a chi sa cogliere il cambiamento e soprattutto punto qual è il valore della parola data in Oriente? Intanto chi coglie il cambiamento guadagna e diventa ricco, a tutti i livelli. Il valore della parola è come il semaforo alla Formula 1. Quando dici una cosa, immediatamente dopo si inizia a farla. Da noi si parla, si fa teorie, poi quando è ora di farla ti dicono, oh, beh, aspetta, abbiamo appena deciso, vedremo. E alla fine non succede mai niente. Esatto. Arriviamo all'ultimo capitolo di una saga che, insomma, ha dato un po' il volto a stomaco. Parliamo del tuo ultimo progetto in Cina, la costruzione di un parco di serre solari integrate con pannelli fotovoltaici. In due parole di cosa si tratta? 66 ettari di terra, tante serre, 143 sopra il fotovoltaico, rinnoviamo tutta l'area rurale che per ora fa soltanto Gran Turco, ci portiamo, speriamo, le competenze agricole di tracciabilità italiane e recuperiamo un po' di soldi dal feed-in tariff, dal contributo sul fotovoltaico. Cerchi, forse un po' incoscientemente, di trovare fondi in Italia per coinvolgere banche e imprenditori del paese. Un anno dopo, qual è il vero e anche purtroppo drammatico bilancio? Pochissimi, bravissimi. Giovani sprovveduti, le start-up in Italia sono purtroppo un territorio che fa un po' pena perché non c'è preparazione ad approcciare il mercato, solo teoria. Banche, lasciamo perdere. Capital venturist è un concetto che proprio non appartiene alla nostra cultura economica. Sembriamo indietro ancora di 20, 30, 40 anni, dalle tue parole. Che Italia hai trovato? Purtroppo ho trovato un'Italia che è brava a fare sofismi economici e sociali. E sofismi. Poco concreta. Cioè, si ragiona, si fa del gran parlare, ma poi alla fine... Stringi. L'importante è andare avanti, tirare avanti, ma non è fare. Non è fare. Questo tuo personale pellegrinaggio si riassume nell'espressione che vergogna, che gentaccia. Un'Italia, insomma, anacronistica alla disperata ricerca di uno status quo che ormai è perso. Gente che non sa cosa sia a rischio, insomma, dici. Non ti faccio la solita rutinaria domanda su come vedi l'Italia dall'estero perché è fin troppo chiaro, ma ti chiedo di illustrare il tuo personale elettroshock per la nostra classe dirigente, anche per i nostri imprenditori, che tu più umilmente chiami ricetta contro una brutta fine. Così come l'ho scritto, valigia, aereo, un paesaccio della Cina, non andate nelle grandi città perché agli italiani non aiuta, e via di elettroshock. Se poi sentite la mancanza della famiglia, spostate tutti ad Hong Kong, dove si sta bene, e ci fate qualche settimana, i bimbi studiano. Se non potete permettervelo, se ci sono problemi o qualcosa, comunque muovetevi, cioè non fate colazione tutte le mattine col cappuccino e brioche, muovetevi. Ed è qui con noi in studio Giacomo Biraghi, esperto internazionale di strategie urbane, tra i coordinatori dei tavoli tematici Expo 2015 di Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Giacomo, una storia che non risparmia sorprese, quella di Michelangelo, e tra poco scopriremo anche perché. Però, prima di tutto, che effetto ti ha fatto ascoltarla? Avendo una responsabilità di aiutare imprenditori italiani, mi fa dire devo fare di più veloce. Sintetico, rapido e conciso. Natale duro e triste, poi passo per Expo 2015 a Milano e mi invitano a un tavolo tematico. Incredibile, trovo gente interessata e pronta a giocare con me in Asia. Michelangelo, così c'è scritto, ed ecco qui la sorpresa. Il raggio di speranza in un'Italia un po' in declino. Come nasce l'idea di uno Stargate tra Italia e Cina e di cosa si tratta in concreto? Sì, niente, noi metteremo due delle nostre piccole serre qui, le riempiremo con tutta la tecnologia che possiamo, italiana e non, perché poi ci sono anche esteri che si propongono, le faremo vedere concretamente in Expo, e poi con le webcam e tutte le connessioni multimediali che di grazia avremo, faremo vedere la larga scala là in Cina, che è un paese difficile. Lo Stargate è aperto, poi chi ci passa dentro... Questo è arrivato proprio grazie alla collaborazione con i tavoli tematici. Esatto. Giacomo, tu sei un esperto internazionale di strategie urbane, per la Camera di Commercio di Milano coordini gli 8 tavoli tematici di Expo. Rapidamente, ci spieghi cosa sono questi tavoli e come state stanando nuovi imprenditori per portarli al successo? C'è una ipotesi importante che Expo possa contribuire allo sviluppo di Milano e di questo paese. A fronte di questa ipotesi, noi offriamo una piattaforma aperta, collaborativa, che premia il rischio, dando un minuto di tempo a tutti gli imprenditori che vogliono raccontare il proprio progetto per Expo. Questa formula meritocratica, aperta e veloce, sta creando le connessioni e le sinergie che forse, ci diceva Michelangelo, mancano al sistema imprenditoriale italiano. 515 le proposte progettuali raccolte finora. Giacomo, allora, esiste un sottobosco di energie nuove imprenditoriali, di giovani da portare in prima squadra, rompendo un po' il circolo vizioso di un sistema paese incrostato da gente che non rischia più. Qual è l'identikit di questi giovani imprenditori e riusciranno soprattutto a prendere in mano il futuro dell'Italia? Non lo so se riusciranno, ma certamente lo stanno facendo con forza nei propri campi, e sono persone sostanzialmente aperte alla collaborazione. Se devo dire una parola, è proprio la capacità in quell'incontro, imprenditori che non si conoscevano, grazie alla visione e la fiducia che genera un minuto di presentazione creano sinergie economiche e progettuali che vanno oltre il nostro spirito invece di silos e solitudine. Speriamo che anche noi possiamo contribuire con questa trasmissione a queste sinergie. Michelangelo, è una domanda per Giacomo? Riusciremo a aprire questo Stargate? Sarà possibile? Riusciremo a cambiare un pochino, mettere un semino in questo paese di cambiamento e di modo di guardare all'estero senza tanto terrore? C'è ragione di essere Expo ottimisti, perché questa manifestazione sarà proprio la possibilità per l'Italia di farsi vedere al mondo. E secondo me l'esposizione internazionale e il limite temporale che questo evento ci pone saranno capaci di selezionare nel mucchio gli imprenditori più capaci. Giacomo, raccontiamo in breve come contattarvi per partecipare a questi tavoli tematici. Il mio cellulare è su internet al sito www.tavoliexpo.it, dove c'è anche una bella sezione presente un progetto. A proposito di essere aperti e meritocratici, come vedete, pochissime barriere, tutto molto diretto, molto semplice, pratico, finalmente una ventata d'ossigeno in questo paese. Grazie a Giacomo Biraghi. Grazie. E in bocca al lupo. Domanda di rito per Michelangelo Guglielmetti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Lavorate solo, sodo sull'inglese, mi raccomando. Svegliatevi pensando sempre di vorcela fare, non rinunciate a quello che avete in mente. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un giovane professionista con formazione economica o di management per la Asian Development Bank a Manila, nelle Filippine, scadenza per CV 31 marzo, info su adb.org/careers. Consulente in affari europei per Afor Consulting a Bruxelles, preferibilmente con background in istituzioni comunitarie, scadenza per CV 28 febbraio, curricula recruitment@forconsulting.eu. E infine l'INRA, French National Institute for Agricultural Research, bandisce una posizione da ricercatore junior, priorità agli specialisti in biologia animale, scadenza per CV 3 marzo, info su jobs.inra.fr. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, riapriamo lo spazio Interactive con i vostri contributi alla discussione, molti dei quali consultabili integralmente sul blog ufficiale di Giovani Talenti all'interno del sito radio24.it. Vi proponiamo la lettera di Anna, professionista e madre emigrata in Germania, dove, è proprio il caso di dirlo, ha scoperto un altro mondo in tema di valorizzazione del lavoro femminile. Mi chiamo Anna, vivo in Germania da quasi 3 anni. Non mi considero un giovane talento, perché ho passato nel 2013 la boa dei 40 e perché non mi sento neanche particolari talenti. Sono solo una donna che ama il suo lavoro e cerca di farlo bene. Mi sono trasferita qui come espatriata, muovendomi all'interno della mia azienda, perché avevo voglia di fare un'esperienza internazionale e cambiare area funzionale, cosa che in Italia non mi era possibile. Non credo che tornerò. Il motivo principale è il tema che vorrei portare alla vostra attenzione e di cui secondo me non si è ancora parlato abbastanza, ovvero quanto sia meglio per una donna, specie con figli, lavorare fuori dall'Italia. Io sono una mamma single. Mi sono trasferita qui con un bambino che all'epoca aveva 2 anni, accettando un lavoro full time. Certo, la mia è una grande azienda, ma qui ho trovato un asilo nido aziendale che ha ospitato il mio bimbo finché non ho avuto un posto all'asilo comunale. Un asilo comunale dove, arrivata a marzo, da agosto ho avuto un posto full time compilando un fogliettino con i miei dati anagrafici, niente ISEE o cose simili. A Bologna, al nido, ero 42esima in lista di attesa. Totale flessibilità nella gestione del mio tempo in azienda. Mi è sempre stato detto: qui contano i risultati che porti. Totale rispetto per le mie esigenze familiari. Nessuno ha mai storto il naso se sono dovuta rimanere a casa perché il piccolo era malato. Nessuno ha mai dubitato che ho davvero lavorato quando ho dovuto fare home office perché l'asilo era chiuso. Totale correttezza nei rapporti uomo-donna sul luogo di lavoro. Nessuna battuta a sfondo sessuale, nessuna aperta discriminazione. Un'azienda che ha apertamente dichiarato di volere più donne ai livelli manageriali. Più importante è forse parlare del mondo che ho lasciato in Italia. Un sito dove, se non eri maschio, ingegnere, sui 40 e legato alla produzione, non eri preso in considerazione. Dove scopo abbastanza palesemente dichiarato del site manager è eliminare ogni forma di part-time. Dove non c'è più una donna nella prima linea, ce ne siamo andate tutte. Dove in una riunione di prima linea, in cui tra circa 10 persone ero l'unica donna, dopo l'ennesima deriva a sfondo sessuale, un collega, forse più sensibile di altri, si è girato verso di me per dirmi: «Tu è meglio che ti abitui». Dove, se dici che devi uscire presto, alle 17, ti dicono «ok», con quel tono che in realtà significa «sei una sfigata» e ti riempie di sensi di colpa. Non credo di essere capitata particolarmente male. Questa è l'Italia. Per questo io in Italia non voglio tornare. Qui in Germania è ancora possibile lavorare con soddisfazione e con altrettanta soddisfazione crescere un figlio, anche da sola. Un motivo per restare o tornare. Tre buone notizie per ricerca e istruzione. La prima dal bando SIR, che mette a disposizione oltre 47 milioni per sostenere giovani ricercatori under 40. I progetti dovranno essere presentati entro il 13 marzo. Tutte le info su sir.miur.it. Il Ministero della Salute ha invece assegnato finanziamenti pari a 135 milioni, di cui 58 per giovani ricercatori, in seguito all'approvazione della graduatoria dei progetti vincitori del bando ricerca finalizzata ai giovani ricercatori 2011-2012. Infine è stato firmato il decreto Visiting, che mira ad agevolare lo scambio di docenti e ricercatori tra atenei e ad attrarre professori e studiosi stranieri in Italia. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog, aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è potere agli espatriati, dibattetevi in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di febbraio è: considerate possibile il ricambio della classe dirigente in Italia a tutti i livelli mediante una robusta iniezione di giovani professionisti di talento qualificati di rientro dall'estero? Se sì, come? Concretamente, inviateci proposte. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.